Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Esattamente quasi un anno fa, ragazzi e ragazze, incredibile veramente. Abbiamo avuto uno stop della programmazione di Star Trek quasi un anno e ora, come per magia, sono tornato ancora su questi schermi. Vi saluto, vi ringrazio per essere con noi sintonizzati su Spreaker. Io sono e rimango sempre il conduttore Andrea, tenervi compagnia questa sera, insomma, dopo un anno, come si suol dire, meglio tardi che mai, come dicono alcuni, Puntatone improvvisata questa sera, ascolteremo delle canzoni che ho selezionato, che apprezzo molto, spero che anche voi le apprezzerete. E salutiamo anche chi è che magari sta andando in discoteca a ballare. Voi direte, di giovedì? Sì, pure c'è anche la gente che va a ballare giovedì, Io sono pronto? Sì. Ma come sei conciato? Perché ho un vestito di Luigi 103? Ma non andiamo mica a ballare minuetta, andiamo in vedi. Discoteca. Che vedi che vanno. Le galline non ti cagano neanche. Ma guarda che le galline non mi interessano mica. Maron, babbo. Qua non è venuto né canne né pesce, né maschio né femmina, né ibrido. C'è il babbo che si sta ribaltando dentro la tompa, maro. Qualcuno che va in discoteca, avete sentito, insomma, c'è, quindi non possiamo lamentarci. Qualcuno che va a ballare in discoteca c'è anche questa sera. Ed era lui, il grande, grandissimo Diego Abbatantuono. Ora, in apertura vi ricordo, insomma, tutti i nostri contatti. Devo essere sincero, sono un po' emozionato perché è quasi un 7 mesi che non ero più su questi schermi e quindi sono un pochino emozionato. Se state ascoltando adesso proprio la diretta live, potete scriverci un messaggio proprio in diretta, oppure abbiamo anche l'indirizzo di posta elettronica, vediamo se me lo ricordo ancora, dovrebbe essere startrek@infinito.it, perché è passato un bel po' di tempo, vado a ruota libera, come si suol dire. Ringrazio tutti gli amici comunque che hanno continuato ad ascoltare i nostri podcast in versione registrata. Abbiamo superato i 1000+ ascolti, quindi insomma è un bel traguardo, veramente grazie a tutti per essere rimasti comunque sempre all'ascolto di Star Trek e all'ascolto di insomma di questa bella trasmissione. Tanto per ridere, no, come si chiama, potrei anche dirvi che no, Matt, no, devi permettere al signor Spock di analizzare la tua struttura interna, se possibile. Perché no, lo permetterò, signor Spock, lo permetto sempre tutto, diciamo così. Stavo dicendo, appunto, vi stavo ringraziando e ora direi di ascoltarci la prima canzone, che è in tema, pensate un po', in tema con le discoteche. E questo brano lo dedichiamo a un caro amico che spesso, insomma, si andava insieme a ballare. Adesso purtroppo è un periodo che anche con lui non mi faccio più sentire, però mi farò sentire, anzi mi scuso con te se magari sei all'ascolto, se non mi sono più fatto vivo. insomma, la vita è così, riserva sorprese, belle sorprese, eccetera, e anche momenti di pausa. Diciamo che ho preso l'astronave Enterprise ed ero su un altro pianeta. Dai, scherzi a parte, partiamo subito con la prima canzone che ci riporta un periodo glorioso della musica da discoteca. Qua siamo nel 2002, se non erro. Un brano che è un rifacimento di un grande disco degli anni 80. Il titolo è che ce l'ho un po' scritto in piccolo, Waiting for Your Love, bellissima. Ed è un brano qua che ascoltiamo direttamente sull'astronave Enterprise. Signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, ho paura che mi morda. Arrivederci. Arrivederci. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, ho paura che mi morda. Arrivederci. Arrivederci a lei. Era Renatore, va bene, ogni tanto vengono a trovarci questi personaggi un po' strani. Astro Track, cioè la grande musica dance del 2000, in compagnia di Andrea. Buona serata a tutti. Waiting for Your Love. Nostalgia, nostalgia veramente. di quel periodo, di quei locali, di quella musica. Ci rimane giusto, diciamo così, i ricordi di quell'epoca grandiosa delle discoteche del Nord Italia. Mando un saluto a un mio caro amico che anche lui apprezza questa musica e con lui ho condiviso alcuni dei momenti più belli della mia vita. Ti mando un caro saluto. Pensate, oggi stavo uscendo di casa, no? Insomma, e c'era una signora che fa, c'era un cagnolino proprio innocuo, no? Quel signore fa: no, no, oh, che paura che ho di quel cane lì, cioè, ma non ho parole, dai, cioè, un cagnolino non fa niente. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, ho paura che mi morda. Arrivederci. Ok, non proprio così, comunque. Grandissimo Renato Pozzetto, veramente. È sempre lui, no? Un mito, ogni tanto arrivano qua casualmente sull'astronave Enterprise. Che state facendo di bello in questo giovedì sera? Insomma, in TV cosa c'è stasera? Il Segreto, tutti quei programmi, direi programmi culturali della terza rete. No, sto scherzando, va bene, dai. Se invece di vedere la TV preferite rimanere con Star Trek, io vi ringrazio veramente, veramente tanto.